Effetto Mondo. E buongiorno a Giulia Crivelli. Però stiamo ascoltando, sì, ci sono entrati giustamente a gamba tesa con Mike Pence. Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti. Che dice? The importance of presidential leadership. The importance of administration leadership. È molto interessante questo passaggio, perché ieri Donald Trump ha dato la parola al suo vicepresidente Mike Pence dopo aver detto in questa conferenza stampa che gli delega la gestione di questa task force coronavirus, perché loro sì che possono dire loro virus, sì. non il noi, nostro insomma, ministro della salute, noi. No. E Mike Pence ha detto, siccome lui era governatore quando esplose la MERS, che era un tipo di polmonite virale molto più aggressiva, data da un virus molto più pericoloso del Covid-19, e quindi gestì quella emergenza, e anche per questo dice sono stato scelto, e lo ha detto lo stesso Trump. Ma questo passaggio è interessante perché gli Stati Uniti sono un paese autenticamente federale, quindi ci sono tantissime materie in cui sono competenti i governatori, in cui le competenze si sovrappongono, un po' come accade da noi, anche se la nostra storia di federalismo è più recente. E quindi lui dice sono perfettamente conscio dell'importanza di coniugare le direttive del presidente a quelle dei governatori, a quelle delle singole comunità, e quindi insomma vediamo se intanto ci sono 2,5 miliardi di dollari stanziati. Questa notizia è su tutti i giornali, ma il New York Times per esempio come titolo principale ha i bombardamenti a Idlib, perché in effetti noi siamo qui a fare la conta dei morti, che è sempre un brutto modo di contare, e però a Idlib intanto in un colpo solo muoiono decine di persone, soprattutto civili, per questa guerra in Siria dimenticata che il New York Times ricorda. Un'altra notizia che mette in prima pagina anche Financial Times, sempre legandoci a Trump. Trump rientra da una visita di 3 giorni in India, focalizzata soprattutto sulla capitale. Sì, ne abbiamo parlato molto. Esatto, sì. E nella capitale scoppiano dei disordini. Sono finora 20 morti, 200 i feriti, collegati alle tensioni religiose in particolare. Il premier Modi schiera non proprio l'esercito, ma milizie paramilitari, perché naturalmente l'intento è di stroncare queste rivolte sul nascere. Però per dire che insomma i focolai di violenza e il conteggio dei morti lo dovremmo fare in tantissime zone. Poi sono d'accordo con te, si è parlato tanto del coronavirus perché le notizie oggettivamente c'erano. Sicuramente in termini di proporzionalità tra la gravità della notizia e lo spazio dedicato si è esagerato e si sta continuando a esagerare. C'è una questione che fino un po' sottovalutata, che fino a qualche tempo fa era un vero alibi, adesso meno. La novità è il fatto che è un virus sconosciuto, e quindi inizialmente nessuno poteva sentirsi di dire a cuor leggero è un'influenza e via. E quindi insomma, poi stiamo correggendo il tiro, secondo me fa anche parte del fatto di essere tutti umani, no? Sì, e tra l'altro comunque per esempio i due principali quotidiani economici inglesi, in lingua inglese, cioè Financial Times e Wall Street Journal, parlano di questo. Financial Times dà conto dei primi casi in America Latina e poi dice il WHO, l'OMS, resist pandemic tag, cioè continua a rifiutarsi di chiamarla pandemia. Vedremo se questa cosa durerà, perché intanto appunto cominciano a esserci casi in tutto il mondo, e Financial Times dà conto dei primi profit warning, cioè gli allarmi utili, quando un'azienda dice vi presentiamo i dati a oggi, però vi diciamo già che sui prossimi pesano alcuni fattori negativi, e in questo caso è il coronavirus. Aggiungiamo che per esempio Haaretz, quotidiano israeliano, dà conto dell'allarme lanciato dall'Arabia Saudita, che ha invitato tutti i suoi fedeli musulmani naturalmente a non partire se non è proprio una questione, ma il consiglio è proprio di non farlo, per il famoso pellegrinaggio annuale verso la Mecca. Anche questa è una notizia grande, perché insomma normalmente arrivano milioni di persone. Sì, ed è proprio una cosa che tra l'altro ogni musulmano deve fare almeno una volta nella vita, e possibilmente tutti gli anni. La Süddeutsche Zeitung e gli altri quotidiani tedeschi a loro volta danno la notizia che ci sono nuovi casi anche in Germania, e il ministro della salute Spahn ha detto siamo vicini a un'epidemia di coronavirus, con molta calma, con molta tranquillità, ha descritto i protocolli che ci sono negli ospedali. Ho apprezzato molto, visto che martedì avevamo detto che si diceva che potesse candidarsi essendo un uomo molto vicino a Angela Merkel a guidare la CDU, invece, è come se avesse fatto un passo indietro dicendo non è questo non il, è momento per pensare al mio destino politico personale, ma devo fare bene il mio lavoro di Ministro della Salute. No, pensavo fosse caduto anche lui, perché qui i successori di Angela Merkel cadono uno a uno, come quasi a dire Angela, resta... tra noi politicamente parlando. Sto scherzando. Certo, questi sono insomma tutti i movimenti politici, anche tra l'altro i quotidiani tedeschi sabato, sappiamo, quotidiani americani un po' ne parlano, anche se è una notizia minore se vogliamo. Sabato appuntamento con le primarie della Carolina del Sud, poi ci sarà il Super Tuesday del 3 marzo, mentre in Francia ci sono le elezioni municipali, in particolare quelle di Parigi, e quindi Le Figaro per esempio mette una fotonotizia di un'ambulanza, però parla soprattutto di questo. Cioè, la fotonotizia dell'ambulanza è relativa legata al coronavirus. Sì, perché ma ci sono alcuni ricoverati. No, in Francia, perché ci sono anche alcuni ricoverati in Francia. Qualcuno sostiene che Francia e Germania sono in ritardo di qualche giorno sull'Italia. Io non glielo auguro, ma insomma è possibile che l'Italia abbia un po' anticipato il contagio in Europa. Sì, anche perché c'è l'annosa questione di cui ho visto che ha parlato anche Ricciardi, dell'aver fatto troppi tamponi, di averli. Sì. Però dalla Francia, se volete, visto che magari possiamo alleggerire un po', vi segnalo invece che a Parigi sono in corso le sfilate. Nei primi giorni ci sono stati anche alcuni marchi italiani, che hanno qualcosa a che fare con l'Italia, perché Dior è una storica maison francese ma guidata da un amministratore delegato che è italiano, e Pietro Beccari, e da una stilista soprattutto, è la prima donna tra l'altro a guidare Dior, che è Maria Grazia Chiuri, e qui abbiamo un suo estratto perché lei si è quasi un po', non so, questo lo dico io, magari invece lo sta studiando, si è un po' così rifiutata di imparare il francese, però sa l'inglese e qui commenta la sfilata che è stata da tutti definita bellissima. This collection, the starting point was like a diary because, e appunto dice con un accento che sentite un po' italiano, però un inglese correttissimo. Dice, spiega che tutto è nato dalla sua infanzia negli anni 70, perché lei sono molte stagioni che preme su questo tasto della femminilità, del oddio, adesso dico una parola che per tanti è una bestemmia, del femminismo, ma che si può essere femminili e femministe. Questa è un po' la sua idea. E le foto naturalmente sono su tutti i quotidiani. Allora, dove ci porti adesso? In Spagna? No. Volevo tornare un attimo in Germania, perché in realtà non te l'ho segnalato prima, però adesso guardando, in effetti, forse anche perché so che del tema vi siete occupati tanto anche in altre trasmissioni, sì. Ed è questa decisione di Karlsruhe, è una città tedesca, di autorizzare lo Sterbehilfe, cioè l'aiuto all'eutanasia, diciamo, quando ci sono certi casi di pazienti che si sa avevano espresso o esprimono, perché sono ancora coscienti, questa volontà non avendo più speranze, oppure perché ci sono delle condizioni mediche tipo coma irreversibile, Karlsruhe ha detto che lì si potrà fare. La Süddeutsche Zeitung ci apre su questa notizia, il Tagesspiegel invece ha un editoriale molto critico che dice la morte non deve essere mai una terapia, e sappiamo che anche qui in Italia appunto c'è molta discussione, e la legge naturalmente è ferma in Parlamento sul fine vita. E qualcosa si sta muovendo anche in Germania invece. Sì. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana. È tutto per oggi per quanto riguarda Effetto Giorno. Jacopo De Franchi in redazione, Filippo Aureggi in regia, da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata, ci risentiamo tra pochissimo per l'aggiornamento delle 14.